Il punto di Stefano Folli. Come è d'uso in questi casi, si deve esprimere massimo rispetto per la magistratura. Tuttavia, di fronte all'avviso di garanzia inviato al presidente della Lombardia, Maroni, ci si domanda se il gioco vale la candela. Ci sarebbero state pressioni per favorire l'assunzione di due persone, ma naturalmente non è un'accusa precisa, solo un'informazione sull'indagine in corso. Maroni è il presidente della più grande regione italiana e la recente inchiesta sugli abusi dell'Expo non lo ha toccato né sfiorato. È proprio il caso di rischiare di destabilizzarlo adesso con un'ipotesi di reato del tutto minore, peraltro ancora da verificare, quando siamo a pochi mesi dall'esposizione universale, con tutti i rischi e le incognite di un'impresa in cui è in gioco il prestigio italiano? Nessuno è al di sopra della legge, ovviamente, ma anche il buon senso e un minimo di opportunità fanno parte di una corretta amministrazione della giustizia nell'interesse dei cittadini. Almeno così accade nei paesi dove la giustizia funziona di sicuro meglio che in Italia.